presenta... Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. You look at what's happening last night in Sweden. Sweden, who would believe this? Sweden. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I watch them roll away again. Sitting on a dock of the bay, watching the tide roll away. Thank you. Sitting on a dock of the bay, wasting time. Hey, hey. Thanks now. I left my home in Georgia, headed for that Frisco Bay. I had nothing to live for, looked like nothing gonna come my way. Oh, I'm just a city. Lo stadio lo vuole Grillo? Abbiamo e ora vediamo come, non decido io. Ci sono delle problematiche che verranno discusse con la giunta, il sindaco. Se si dovesse fare uno stadio con le strutture vicino, sarà fatta con dei criteri che qui non hanno mai visto. Quindi si dovrà occupare un costruttore, non un palazzinaro. Renzi sta ricostruendo la Democrazia Cristiana. Non mollare, Renzo, non mollare. Renzi, non mollare. Io ti sono favorevole. Io aspetti, io farò delle cose meravigliose per te in rete. Spargerò la voce che sei un uomo leale, che non hai mai raccontato storie nella tua vita, che hai una famiglia meravigliosa e un papà meraviglioso. Quindi torna, non andare via, non andare via. Il paese ha bisogno, l'ultimo centimetro prima di sprofondare nell'abisso, di un tuo aiuto, sennò da soli non ce la facciamo. È tornato Grillo, è tornato, era a Roma per verificare questa cosa del Campidoglio. Oh signori, a Milano ci sono 3 gradi questa mattina e fa freschino perché c'è quell'umidità posticcia che ti si attacca alle ossa. Ci fanno sapere che a Perugia ci sono 4 gradi, grazie Luca che ce lo fa sapere. Non si sa Bologna, sono ancora sotto le coperte, ci dice un ascoltatore. Non sappiamo quanti gradi ci siano a Bologna. A Babato 4 gradi, cos'è Babato? Lorenzo Nespoli, lavoro per te, 4 gradi. Savigliano -1, siamo in provincia di Cuneo. A Siena 1 grado, ci fa sapere l'ascoltatore. Anche a Giulianova Teramo 1 grado. A Treviso 4 gradi. Babato, frazione di Vigonza. Ah, va bene, ottimo. Sì, certo, siamo a Padova. Vigonza. Sulla Pontina 6 gradi, mentre Marco, ecco, che è uscito dal letto a Bologna, ci dice che ci sono 4 gradi a Bologna. A Roma 2 gradi, grazie Laura per questa segnalazione. A Columbus, Ohio, 10 gradi. C'è sempre il nostro Matteo a Columbus, Ohio. A Bergamo 4 gradi, a Berna 6 gradi. Grazie. E allora vorrei sapere anche nelle montagne dove sta il nostro scrittore preferito Mauro Corona, quanti gradi ci sono? Buongiorno Corona, come sta? Io sto a Roma, sono 2 gradi. Porca miseria. 2 gradi. Stavolta 2 gradi fa caldo per lei, 2 gradi. Sì. caldo. Fa un caldo insopportabile. Mi sembra questo elenco dei gradi che sono in Italia, mi sembra tempo sprecato per una radio seria come la vostra. Ma no, ma Corona, è un modo perché i nostri ascoltatori mi scrivono, ognuno ci scrive, si svegliano. Ma cosa c'entra che gradi sono? Chi gliene interessa? Ma così? È pazzesco, poi vi lamentate di Renzi. Ecco, oggi siamo partiti così con Mauro Corona. Allora le presento subito una dolce signora. Così non va, caro Veronica. Mauro, una dolce signora, la nostra Veronica Gentili, così insomma recuperiamo un po' sul tempo perso presentandole. Buongiorno, ma vedo che c'è già chi ti tratta male stamattina. Esatto. Quindi sono di troppo. Niente, ho già buttato via 4 minuti preziosi di trasmissione. Ma Corona, no, ma non è che voglio perorare la mia causa, è che così gli ascoltatori ci scrivono, è un modo così per entrare in empatia con gli ascoltatori. Vabbè, niente, dai, è tempo perso, tempo perso. Più Veronica, meno Milan. Più Veronica, meno Milan. Va bene. Così li faccio salire i gradi. Ecco, è arrivata Veronica Gentili, ci sono già 18 gradi, sento. 18 gradi. Allora dobbiamo aprire il Parlamento perché so che Mauro Corona... No, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così... Non ne può più. Secondo me Mauro Corona non ne può più. Ovunque apri il giornale le prime 10 pagine sono dedicate a che cosa, caro Mauro Corona? Ma questa storia della divisione, la scissione del PD, di Bersani, Renzi, Cuperlo, Emiliano, ma l'Italia... andrebbe aiutata soprattutto poi quelle fasce che non hanno più da mangiare o non hanno lavoro, no? E questo qui tutta lì, ma anche i giornali, mass media, televisione, tutti i giornali che non hanno più, perché la storia della valanga dove sono morti quei poveri 29 non fa più testo, no? Quindi c'è bisogno di scherziamo, che tutta l'Italia parli, che si riparti, ma da dove vuole andare sto PD? Il tempo darà ragione o torto o combinerà le cose, a me non me ne frega niente, invece tutto giornali, telegiornali, tutto quanto incentrato su questa cosa, ma scherziamo. Questa cosa, non ha neanche la parola per definirla. Poi che mi si venga a dire che Renzi è di sinistra, questo è uno scout, è democristiano, su, diciamocelo chiaro. E dentro lì come che... Ma... L'ha detto anche Grillo, sta facendo la Democrazia Cristiana. Ma non è un po' grillino Corona? Ho avuto delle mie... Io ho sempre votato a sinistra, chiaro, ma io non mi riconosco più in questo PD. Non mi riconosco più assolutamente. Fa la scissione. All'inizio delle simpatie, mi pareva, cioè all'inizio le cose sono come gli amori, no? C'è un fuoco folle che ti fa innamorare, poi le cose si per la fine, ma deluso anche i grillini. Allora io non so, sinceramente non so se dovessi andare a votare, chi voto più. No, non si sa più, perché destra non parlarne, a destra no, non parlarne. No, vorrei che... ricorda i capponi di Renzo Lucia, lì erano due, qui ci sono tanti capponi, si stanno ammassando. La questione è proprio questa, Veronica, di livore personale. Oggi sulla stampa c'è scritto che D'Alema ha detto questo: dobbiamo sostenere Gentiloni, perché più lo sosteniamo più si logora Renzi. Cioè, no, capite, però, non gliene frega niente. Abbi pazienza, sciocchina, perdonami. Io non vorrei adesso risultare tremendamente impopolare, però adesso lo sport nazionale è dirci tutto il tempo quanto non ce ne frega niente se il PD si scinde. Per carità, non ce ne frega niente, i problemi del paese reale sono altri, però abbiamo fatto 3 anni a dire quanto Renzi sia un democristiano, quanto abbia portato il partito al centro, quanto non esista più una sinistra in Italia. Quindi a questo punto, che all'interno di quel partito, che uno li prenda sul serio, che non li prenda sul serio, quello che volete, ma che fosse necessaria veramente una riflessione urgente e rivedere tutto quello che era accaduto, come del resto è accaduto alla sinistra. Poi possiamo parlare della maledizione della sinistra, che ogni tot di anni si trova purtroppo a rifare i conti con se stessa e con la propria composizione ontologica è un dato ma di fatto. Ma scusa, perché Veronica, tu pensi che non si scindano alle 6:30 di mattina? No, ma però... scusa, ma perché tu pensi che si scindano per questioni di dove va il partito? Ma si scindono Penso per questioni di livore personale. Discussione sempre solo a macchiettizzare le Ma non è macchiettizzare, persone. È livore. Purtroppo non porterà lontano nemmeno coloro che nella sinistra ci credono e ci hanno creduto. È livore Quindi personale. Se il dibattito collettivo, anche della stampa, verte attorno ai livori di Emiliano, di Speranza, di D'Alema che in realtà fa il gran regista, sì. Secondo me nemmeno noi diamo un contributo in nessun senso a cercare di analizzare punto di vista profondo cosa ma sta io, accadendo. Io la penso questa così, è la mia visione, ma ho premesso che era impopolare. Ma no, ma è chiaro, ma io non è che dico cioè, la mia idea è come, allora, ieri Maria Dinolfi ci ha detto ci credo al 60%, vabbè, insomma, fai la brava, che sia una questione di poltrone, perché con la legge elettorale attuale, anche col 3%, se tu ti dividi puoi ottenere 30-40 parlamentari, quindi è un modo, e Renzi invece non li ricandiderebbe e quindi hanno, come dire, vincono un secondo giro in Parlamento, e secondo c'è anche livore personale, ma guarda che la politica è fatta di queste cose, cioè, ma questo è sacrosanto, il problema è che questo è l'unico aspetto del dibattito attorno cui noi che abbiamo in qualche modo, no, il cannocchiale per leggere gli eventi facciamo le disamine politiche. Se facciamo soltanto questo, non soltanto ci sono loro che si odiano, che non si sopportano, Emiliano che traccheggia e adesso sta facendo così, tricca ballacca, non si sa che deve fare oggi, esatto. Restano o non restano, il problema del voto che diventerà, allora il paese lo diamo in mano a Salvini, lo diamo in mano a Grillo e quindi sono degli irresponsabili, tutto questo benissimo, stravero, però che all'interno di questa sinistra non si possa non far evitare una riflessione ancora, secondo me è un dato di fatto, perché purtroppo è stato un percorso che stava già accadendo, quindi che poi la gente alla sinistra non la vota più e vota Grillo. Perdonatemi, non so, vediamo. L'abbiamo già visto succedere. Mauro Corona, visto che ha votato il PD, adesso poi non ne parliamo più del PD, però visto che ha votato sempre a sinistra e dice che Renzi è un democristiano, non è di sinistra, non voterebbe D'Alema, i Bersani? Ma D'Alema, per carità, ma confida ancora, è riapparso D'Alema. Rino Formica diceva, sul fatto che abbiamo detto prima, che sono livori personali e voglia di potere, di essere lì sopra, sangue e merda, diceva, che è la politica, quindi livore, e qui no, D'Alema è uno sconfitto che l'ha mal digerita, sì. E vuole riapparire e vuole comandare, è un uomo di potere, sarebbe stato un ottimo dittatore D'Alema. Addirittura, certo, ma guardateli gli occhi, guardateli l'espressione. Ah, già, guardate, è vero, quando si arrabbia. Ah, già, bello. Che l'ombroso non era un cretino. Bravo. L'ombroso la dice lunga. Giusto. Il momento l'ombroso di Mauro Corona è straordinario per me, perché anch'io sono l'ombrosiano. Guardo le persone, quindi sarebbe interessante. Cioè, da cosa capiamo che potrebbe essere un potenziale dittatore? Proprio guardandolo in faccia. Guardi, io ho una teoria personale che può essere strampalata, può essere patetica, pietosa. No, vediamo. Ma le persone hanno un controllo giornaliero, tranne quando dormono, degli occhi, dello sguardo, della postura, della faccia, che ogni tanto, ma bisogna cogliere il momento che sono è mezzo secondo, perdono questo controllo e vedi tutta la ferocia a volte in certe persone, la voglia di comandare, la voglia di spianare tutti gli altri, di essere suo. D'Alema, quando gli scappa il controllo, bisogna stare attento alla fuga del controllo che può durare mezzo secondo. Vedi veramente che è una persona. E che succede in quel mezzo secondo? Vedi tutta la sua voglia di potere, di comandare. D'Alema vorrebbe comandare e dire tu vai lì, tu no, tu stai dentro lì, c'è la voglia di potere. Che abbiamo un po' tutti noi nei gradi della vita e dei nostri lavori che facciamo, delle nostre posizioni. Ma lei ce la fa almeno a casa con la moglie, c'è riuscito? Neanche no, con la moglie. Io vivo da solo, ho superato il mano nella mano, l'ho superato da tempo. Il mano nella mano, è nella tarassia, è nella fase proprio del distacco. Invece sa che non sappiamo mai, insomma, capito Veronica, anch'io Io sono assolutamente d'accordo, non dire nulla, io sono totalmente d'accordo con le teorie ombrosiane. Ma cogliesse quei 30 secondi nel tuo di sguardo. No, è bellissimo. Invece qua, ma a proposito di mano nella mano, Veronica, vuoi darci un dettaglio oggi sul fatto se sei fidanzata o no? Purtroppo ho visto che l'abolizione delle province vanno avanti le settimane, mano nella mano, non saprei che dettaglio darti, guarda. Non lo so. Sono stata ad un matrimonio sabato, non era il mio. Sei stata a un matrimonio ma non era il tuo. Pensa che l'ho preso il bouquet. Pensa che l'ho scoperto ieri, l'ho saputo so, da persona. So che tu adesso ti stai muovendo bene per indagare. Ho eh? Capito, ma eri invitata per un invito a due o accompagnata o... Le tue fonti non ti hanno detto nulla? Pessimo giornalismo. No, vabbè, cioè... Vorrei che tu lo dicessi pubblicamente, no, non si sa. Non si che sa. Cosa, ma sai che queste cose non si fanno? No? Non si sa, vabbè, indagherò. Intanto dopo già, la scissione ne riparliamo. Ho già un indizio. Allora, facciamo così, andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi rientriamo, nuovi gradi, nuove temperature, con un momento importantissimo qui a Radio 24 con Mauro Corona e Veronica Gentili, state con noi. Alino, dai, fanno il balabio, manda il traffico. Alessandro, sono un noleggio con conducente, mi sono rotto i coglioni di questi tassisti, parlate anche degli NCC. Vabbè, visto che non lo dice nessuno, lo dico io. Caro Matteo, a noi della vostra scissione non ce ne frega un... Milan, è la solita spartizione della torta. Milan, dicono tutti che sei un tuttologo, ma nemmeno tu sei stato in grado di spiegarci di che cosa stanno litigando quelli del PD. Casino, non vince mai nessuno, perché dobbiamo fare sta cosa? È il suicidio. Pensa a Follini, Fini, ha visto come sono finiti i Rutelli con i loro partitini, è un disastro. No, non facciamo. Vabbè, hai finito? Hai finito la commedia? No, voglio sapere quello che dici. No, ma voglio sapere che sei finito la commedia. No, ma sono giornalista. Ma per... no, se sei mi giornalista... sono levato il cappello dell'Armata Rossa. Dai, adesso rispondimi. Allora. Sono venuto qua per... Rimettitelo su e fa un per lui. Perché mi tratti così? Enrico Lucci col colbacco, vestito da russo, da un Bersani nervosissimo. Vedi, hai finito la commedia? Cioè, qui c'è una vita politica di che stiamo discutendo e tu vieni qua vestito d'Armata Rossa come un soldato. Tra l'altro Lucci ha anche annunciato che si candida leader del PD vestito così. Vabbè, io invece rivendico, cara Veronica, il fatto di parlarne così, perché veramente la gente fatica a capire. Io invece insisto sul fatto che Bersani è un altro di quelli, va bene, appunto, va una persona verso la quale bisognerebbe portare rispetto, ma non c'è dubbio, perché ne avrà combinate tante quanto volete, non c'è dubbio, fatto mille errori, ma è uno che sicuramente, siccome quel governo con il Movimento 5 Stelle, nonostante non lui i voti li avesse presi, sì, non sì, è sì, riuscito a farlo e ha lasciato il posto prima a Letta e poi preso da Renzi così, alla bruta. Quindi c'è poco da prenderlo in giro, secondo me, perché ma se quel partito sì, è rimasto mamma mia, grazie a Bersani. Ma io intanto non voglio fare la difesa d'ufficio. No, ma è chiaro. Faccio sapere che a Castelcucco ci sono 2 gradi, ad Alberobello 4 gradi, e soprattutto che un noleggiatore con conducente di Roma fa sapere che a Veronica Gentili la porterà in giro gratis. Dai, è vero. Ecco, dai, questa storia. Come si chiama lui? Non lo so, non lo dice. Perché sai, magari la moglie poi all'ascolto, queste cose. Si potrebbe cercare. Allora, Mauro Corona, che è a Roma, ha preso un taxi. Ha capito questa storia del taxi? Ha visto ieri proteste, è spuntata una pistola. Pistola giocattolo, per carità, lanci di uova con i noleggiatori con conducente. L'ha capita questa disfida taxi? No, ho capito il disagio. Io adesso devo andare alla RAI. Vabbè, che la RAI ha mezzi potenti, verranno a prendermi, però devo considerare anche il disagio della gente. Insomma, 5 giorni senza taxi. Poi non ho capito perché, avranno le loro ragioni che vanno, sì, che vanno rispettate, però. Bisognerebbe, non lo so, organizzare in altro modo, perché c'è la gente lì alla stazione che non sa dove andare, no? È una specie di ricatto con buone ragioni. Ma l'Italia è così comunque. Ma sì, lo so, lo so. Ma loro hanno le loro ragioni, cioè nel decreto mille proroghe. Sì, nel decreto mille proroghe la politica, come al solito, non ha deciso nulla e ha scelto di rinviare di un anno le regole da mettere per i noleggiatori con conducente. Certo, e quindi loro E quindi e loro... non si fa una legge, chi si siede lì, quelli appositamente delegati a fare le leggi, dicono domani va in vigore questa legge, ma anni, per quello che l'Italia è esasperata. Esasperata è ancora civile la gente, La gente è ancora civile, perché ma io temo che alla fine la gente salti per aria, dica basta. Che non puoi tirargliela avanti, sono i paesi che muoiono di non c'è lavoro, soprattutto nella montagna povera, non si fa nulla. Lei provi a aprire un bar, io conosco gente che ha già da 10 anni che tenta di aprire la latteria, un ragazzo che e addirittura le finestre devono essere 157,5 cm e scartofie e la piastrellatura fategli aprire la latteria, se poi fa il furbo lo si mette dentro. L'Italia è finita nelle pastoie. No, chiudono scuole, asili, le poste. Io sono abbonato a 3 quotidiani e non mi arrivano mai. Quale è abbonato? Sono curioso questa cosa. Gazzettino, che è quello del nord-est, lì mi tengo informato delle piccole cose. Poi Corriere della Sera e Repubblica. Il Fatto lo compro. Il Fatto, però abbonato a 3 giornali. Il Fatto, Veronica Gentili scrive sul Fatto Quotidiano, sarei contenta. Quindi il Fatto lo compro. Conosco anche molti, anche Scanzi, sono molti, posso dire amico di Scanzi. Conosco bene. Il Fatto lo compro perché ha bisogno di soldi, gli altri li danno, invece il Fatto è bella, straordinaria. Guardi che anche noi qua abbiamo bisogno di soldi, se vuole dare una mano insomma. Farò una donazione. Corona, ma una donazione non ci fa male. Tu Veronica, tu Alessandro, il noleggiatore con conducente che ti può portare. Quindi il problema non è più mio, quando mi fai sapere il nome di battesimo io ho risolto. Il problema è trovarlo, questo noleggiatore con conducente. Esatto. Ma invece l'altra questione è lo stadio, voglio capire, Veronica, ma questo stadio sa da fare o non sa da fare? Io non ho capito, Grillo dice sentiremo il popolo, anche il metodo è alternativo, è nuovo, sentiremo i cittadini. E come sa da fare il problema di questo stadio? Da fare. Nel senso sa da fare, ma come? Il Movimento 5 Stelle si trova adesso in un impasse, perché se non l'avessero fatto sarebbe stato, no, come le Olimpiadi, allora non siete in grado di arginare le cose, di gestirle bene voi, quindi o dite no o non siete in grado di trovare un modo nuovo. È chiaro che adesso sono completamente pressati da tutti i lati, dai vari interessi così dei palazzinari romani che stanno già con la bava alla bocca. Quindi temo che sarà difficile. Sappiamo anche che la Raggi non ha dato ampie dimostrazioni delle sue capacità gestionali, per questo ieri Grillo è venuto a fare un sopralluogo. C'è da dire che anche questa idea, non lo so, la frase, allora capisco, sentiremo i cittadini, io non ho tutto questo scandalo a pensare perché, che male c'è, voglio dire, quando volevano fare le Olimpiadi in Germania hanno chiesto in una città, adesso non ricordo, volete fare i cittadini, volete fare le Olimpiadi, hanno fatto un referendum e la gente ha deciso di no e hanno preso atto. No, ma poi in questo caso quindi... non è nemmeno una tematica così difficile, ostica, sulla quale esprimersi. No, la questione esatta è come farlo. Ecco, quando sento però la frase lo faccia un costruttore e non un palazzinaro, ho capito, ma come... Cioè come capisci la differenza? Cioè uno che costruisce ha interesse a costruire, ci dovrà guadagnare dei soldi a costruire uno stadio o no? La differenza per loro sia tipo il discorso delle buche qui a Roma, che la Raggi dice non è stato ancora fatto, perché invece di chiamare appalti amici e accelerare i tempi, ci sono dei tempi più lunghi. È incredibile che in Italia si debba sempre specificare: facciamo una cosa, ma la facciamo, ma dobbiamo farla regola. Come dare per scontato, Mauro Corona, che le cose vengano fatte fuori regola. C'è sempre la scappatoia da noi, c'è poco da fare, dobbiamo rassegnarci. Ora lo stadio. Provate a dire ai romani che non fanno lo stadio, se le Olimpiadi le hanno citate, dire non faccio lo stadio sono veramente cavoli. Però prima vedrei di fare queste buche, di sistemare le strade, dopodiché quando tutto è abbastanza a posto si fa anche la cosa ludica, che è il gioco del calcio, lo stadio. Tra l'altro non è nemmeno così ovvio, perché tanti romani invece stanno dicendo che li sono molto preoccupati dall'eventuale eccesso di costruzioni, quindi sono contrari, quindi secondo me è una cosa su cui le opinioni sono divise, si esprimeranno. Sono sempre metà e metà. Quindi i circenses dopo. Dice Grillo dice di fare referendum. I circenses dice dopo, Corona. Prima il Panem. Le cose essenziali che non creino addirittura pericolo, ma Grillo dice facciamo un referendum sullo Stato, ma mettiamo che 50 dicano sì e 50 no, come la mettiamo? 51. Vabbè, c'è la maggioranza, 51 che dice sì, ma 50 dicono no. Lo so, vabbè, prenderanno atto di questa cosa, poi insomma... In quanto ai palazzinari, trovatemi un costruttore di pollai che non sia palazzinaro, qui sì. Da noi. Appunto, cioè nel senso, dice tutti quelli che costruiscono. Capito, allora che facciamo? Non costruiamo più nulla? No, ma perché l'Italia vive di questi famigli, di questi... Cioè, non reggi, non duri se non sei palazzinaro, in questo caso di costruzioni edili, non duri, c'è tutto, io ti do, vi ricordate quel proverbio, quella canzone, io do una cosa a te, tu dai una cosa a me, l'Italia vive così. Bene, bene. Ecco. Allora, ringraziando Mauro Corona, buon taxi se arriva o buona vettura della RAI. Cara Veronica, ci siamo recuperati. Vuoi dare un ultimo tentativo di indizio finale su di te? Fidanzata, non fidanzata? Il nome, tipo il nome? No. Ma come tipo il nome? Ma cosa stai dicendo? Vabbè. Manda allora il selfie. Ma che rapide conclusioni tiri. Manda il selfie. Guarda, sciocchina una volta. Bene, oggi me lo segno. Grazie. Oggi mi sono un po' trattenuta perché c'erano presenze nuove. Non volevo subito, capisci? Ciao. Metterti in difficoltà. Alla prossima. La nostra Veronica è single o no? È single o no? Anche stamattina andiamo a leggere i giornali di Milan, anche quelli di Roma, di Napoli. E me ci mettiamo pure quello della Sicilia, perché queste cose fanno schifo quello della Sicilia. 24 mattino. Eccoci cari ascoltatori, sono le 7:19 minuti, siamo pronti a leggere i giornali e la rassegna stampa di 24 mattino, questa... col nostro Peter Bescapè in regia, il nostro Lorenzo Nespoli in redazione, la nostra Elisabetta Fusconi che arriverà. Ci siamo tutti! Tra poco Oscar Giannino e Ale, avanti, avanti c'è posto, avanti Peter! Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. E poi ovviamente tutti voi cari ascoltatori, sempre di più vi ringraziamo in questo martedì 21 febbraio. Intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore. Rischio bolla non spaventa i mercati. Dopo le elezioni di Trump, le borse globali hanno guadagnato 6.000 miliardi di dollari. Potete immaginarla questa cifra, 6.000 miliardi di dollari. Peter, fai il calcolo di quanti zeri ci sono. Allora, veniamo invece al PD, che è l'apertura per alcuni quotidiani, Corriere della Sera, il PD e la scissione, l'ora dello strappo, Emiliano vacilla. Repubblica, Prodi, un suicidio, la scissione PD. Per la stampa, PD si incrina al fronte degli avversari di Renzi. Mentre l'Unità punta a questo, la voce delle donne è una scissione tutta al maschile, 9 compagne ci ragionano su. Il Messaggero invece dà il titolo migliore per la telenovela Scissione PD puntata 7894 ed è questo, PD, scissione in ordine sparso. Ecco, oggi mi piace questo il titolo della telenovela, è questo, scissione in ordine sparso. Avvenire invece a un'apertura internazionale, la trappola Mosul sull'Iraq, mentre il giorno allarme scorie nucleari, il professor Boschi dice al quotidiano nazionale siti di stoccaggio pericolosi, mai realizzato il deposito unico. Vedremo altre aperture, intanto voglio concentrarmi su quello che è l'argomento che poi approfondiremo, uno degli argomenti che approfondiremo, la vicenda dei tassisti, la vicenda dei noleggiatori con conducente, la vicenda di Uber, le proteste che continuano nelle città. E ieri, alla vigilia dell'incontro col ministro Delrio che ci sarà oggi, la situazione in alcuni casi sembrava sfuggire di mano. Basta vedere qualche titolo del Corriere della Sera, per esempio a pagina 20, uova e minacce tra tassisti e Uber. La cronaca racconta questo. Giacca e cravatta, pistola in mano. L'uomo scende dalla Mercedes nera, prende la mira senza sparare, poi scappa via inveendo. Sono le 4 del mattino, stazione centrale di Milano, quando un autista NCC, cioè noleggiatore con conducente, reagisce così all'ennesimo lancio di uova di alcuni tassisti. Poco importa che quando viene fermato dalla polizia rivela un trucco, era una pistola a giocattolo. Tra agguati notturni, accerchiamenti, lanci di oggetti, spranghe brandite, maldestri tentativi di vendetta, l'isteria ormai è collettiva. Una spirale di violenza che al quinto giorno di scioperi selvaggi rischia di entrare in un vicolo cieco. Senza inattesi colpi di teatro il governo inciampi nelle commissioni parlamentari, l'emendamento considerato dai tassisti pro Uber, approvato al Senato, passerà anche alla Camera, prorogando l'agonia della mobilità urbana da Roma a Milano. Tra l'altro ricordiamo di che cosa si tratta, perché poi se no succede che c'è appunto, come scrive il Corriere, isteria collettiva e non si capiscono neanche i termini della questione. I tassisti hanno iniziato a protestare giovedì contro un decreto, il decreto mille proroghe, perché nel decreto mille proroghe è stata inserita questa norma che sospende per un altro anno, proroga diciamo per un altro anno, una serie di norme che dovrebbero regolamentare il servizio del noleggiatore con conducente. Insomma, come al solito la politica non decide, ha rinviato di un anno. Questo per i tassisti è una sorta di sanatoria che favorisce Uber. Non è proprio una sanatoria, diciamo la politica non decide, dilata di un anno. E perché il mille proroghe da tempo fino al 31 dicembre 2017 per emanare un decreto che contiene le norme contro l'esercizio abusivo del servizio taxi e servizio noleggiatore con conducente. Ovviamente poi, come al solito, ognuno ha ragione, le persone oneste hanno sempre ragione, i noleggiatori con conducente onesti, i tassisti onesti, sempre ragione. Ovviamente sono quelli che sono i meno ascoltati e prevalgono poi le urla, le situazioni difficili. Tra l'altro sulla mobilità c'è un nuovo fronte che Luciano Capone, che su questi temi si esercita sempre sul Foglio, mette in luce proprio in prima pagina del Foglio, ed è un nuovo emendamento, anti-Flixbus, o Flixbus se volete dirla così all'italiana. Flixbus è una multinazionale tedesca, scrive Luciano Capone sul Foglio, che ha innovato un settore abbastanza vecchio, quello del trasporto su ruota a media e lunga percorrenza, gli autobus per intenderci. Questa società, un po' come Uber, non è proprietaria di bus, di autobus, ma di una piattaforma che gestisce le prenotazioni e le vendite, si occupa della parte commerciale, organizza le tratte, il rapporto con i clienti, definisce gli standard di qualità sui mezzi di trasporto, lavora in partnership con circa 50 aziende italiane. In questo modo Flixbus offre un ottimo standard di qualità a prezzi più bassi, un po' come accade per le compagnie aeree low cost. Il servizio collega 120 città in Europa, in un solo anno ha spostato 3 milioni di passeggeri. Tutto questo rischia ora di sparire a causa di un emendamento di 4 parlamentari pugliesi del gruppo conservatori e riformisti, che prevede che possano essere concesse le autorizzazioni sulle tratte interregionali solo a gruppi di imprese guidati da operatori economici la cui attività principale è il trasporto di passeggeri su strada. Insomma, è un tecnicismo, scrive il Foglio, per rendere Flixbus illegale. E anche qui su questo fronte si parla, insomma, si contesta questa decisione, secondo il Foglio, di creare un emendamento appunto che limiti in qualche modo la concorrenza. Comunque affronteremo la questione, ne parleremo dalle 8:15. Voglio dare 3 notizie che vi metteranno molta allegria. Ovviamente sono molto ironico, come avete capito. Riguardano tutti il fronte giudiziario, sono una più agghiacciante dell'altra. Intanto ricordate il cosiddetto killer del catamarano, Filippo De Cristofaro. 1988 uccise Anna Rita Curina e insieme alla fidanzata olandese salpò in un improbabile viaggio in catamarano, nel catamarano rubato appunto alla Curina, per andare in Polinesia. Furono arrestati Filippo De Cristofaro e la fidanzata olandese dopo qualche mese, è evaso 2 volte dal carcere, alla fine è stato preso qualche mese fa in Portogallo. Ora, beffa per l'estradizione, torna libero Il killer del catamarano. Raccontano Giusy Fasano e Giuseppe Guastella, una pagina del Corriere della Sera. Lisbona, cioè il Portogallo, ignora le richieste dell'Italia, anche perché in Portogallo non è previsto l'ergastolo e questo dunque generava dubbi sulla possibilità di concedere l'estradizione da parte di Lisbona. Ignorate le richieste dell'Italia, prescritte i tempi per l'estradizione, l'ergastolano già evaso due volte è stato liberato dall'ottobre del 2016. Non si hanno più notizie di lui. L'Italia attendeva l'estradizione e voilà. In fuga per la terza volta il killer del catamarano, è il titolo del Messaggero a pagina 15. Poi, Patrizia Reggiani, ricordate, condannata per l'uccisione del marito Gucci, la vedova Gucci, così anche definita, è libera e ricca. Lei ha scontato tutto. Avrò il vitalizio, risarcisco tutti. Questa è soprattutto la notizia che ha fatto un po' scalpore. Maurizio Gucci, che fu ucciso con 3 colpi di pistola in pieno centro a Milano, la vedova che ha scontato come mandante tutti questi anni in carcere. E ora, oltre che libera, si appresta a ritornare ricca, racconta Il Giorno. Succederà se la Cassazione in sede civile dovesse confermare una recente sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha stabilito come il fatto che la signora Gucci abbia ordinato l'omicidio dell'ex coniuge. Ma non incide tutto ciò su un accordo firmato nel 93 tra lei e l'ex marito, in base al quale Patrizia Reggiani riceverà dagli eredi dell'ultimo dei Gucci un assegno da 1 milione l'anno per tutta la vita, oltre a 24 milioni di arretrati che corrispondono al periodo 93 fino ad oggi. Quindi potrebbe ottenere 24 milioni più il vitalizio, 1 milione l'anno a vita dai figli. E lei cosa dichiara? Sto bene, cioè non sto benissimo, ho avuto un'operazione alla gamba, comunque mi sento sollevata, ma stavo anche bene prima, al Victor Residence. Sapete cos'è quello che lei chiama il Victor Residence? Il carcere di San Vittore. D'altronde è notoria perché gira con un pappagallo sulla spalla. È grande affetto per i pappagalli e i loro padroni. Allora, ma siamo all'articolo di cronaca giudiziaria che mi fa più sore della giornata. È l'articolo che vince il premio Mani sul Volante. Sara Martinenghi ne racconta in prima pagina di Repubblica. Il processo dura troppo in appello, lo stupro è prescritto e la giudice ora dice: chiedo scusa. Questo è un caso, scrive Repubblica, in cui bisogna chiedere scusa al popolo italiano. Con queste parole la giudice della Corte d'Appello Paola De Zani ieri mattina ha emesso la sentenza più difficile da pronunciare. Ha dovuto prosciogliere il violentatore di una bambina, condannato in primo grado a 12 anni di carcere dal Tribunale di Alessandria perché è trascorso troppo tempo dai fatti contestati. 20 anni. Tutto prescritto. La bambina di allora oggi ha 27 anni, all'epoca dei fatti ne aveva 7. Dall'aula l'hanno anche chiamata per chiederle se volesse ripresentarsi al processo in cui era parte offesa, ma lei si è rifiutata. Voglio solo dimenticare. Il procedimento è rimasto per 9 anni appeso nelle maglie di una giustizia troppo lenta. Lo ammette senza mezzi termini il presidente della Corte d'Appello, Arturo Soprano. Ha detto si deve avere il coraggio di elogiarsi, ma anche quello di ammettere gli errori. Questa è un'ingiustizia per tutti, in cui la vittima è stata violentata 2 volte. La prima dal suo orco, la seconda dal sistema. Il processo dura 20 anni e la giudice ora chiede scusa. Bimba violentata 2 volte su Repubblica. Agghiacciante quello che dicono. È una vergogna. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Alessandro Milan, il radicchio Trevisan dell'informazione. E va bene, allora cari ascoltatori, non posso, caro Max, fare mio il tuo appello di dire per favore non parlare per un mese di beghe politiche. Come si fa? Come si fa? Insomma, adesso anche ignoriamoli. La politica poi è quella che dovrebbe, deve, fa le leggi, no? I politici, poi insomma questo evento politico non si può ignorare. Certo, sì, anch'io mi chiedo come mai ogni giorno si debbano dedicare le prime 10 pagine di molti quotidiani alle beghe personali, ai livori personali, agli odi personali, ai rancori di persone influenti, importanti, che stanno decidendo se scindersi o no, se dividersi. Tutto questo ovviamente non incide su quello che è la vostra vita quotidiana, su questo non ci sono dubbi, solo loro pensano che sia così. In ogni caso, facendo la rassegna stampa, qui dobbiamo occuparci di quello che scrivono i giornali, e per le prime pagine raccontano, puntata numero 7822, la telenovela scissione PD. Allora, vediamo tra i tantissimi articoli di vedere qualche spunto interessante che vi segnalo. Intanto, secondo Maria Teresa Meli, retroscenista di Renzi, nel senso di tutte le cronache renziane, sul Corriere della Sera, pagina 3, Renzi è tranquillo. Dopo l'assemblea, al telefono con i suoi, scambia valutazioni sulla rottura di Bersani e compagni e sulle mosse di Emiliano. Resterà? Non resterà? Boh, risponde Renzi a chi lo interpella. In quest'articolo però la cosa più interessante è questa: Renzi sta maturando una decisione, quella di cambiare, visto che bisogna armonizzare le leggi elettorali, fare una proposta, aumentare la soglia di sbarramento alla Camera dal 3 al 5%, è chiaramente una mossa contro gli scissionisti, è una mossa, come dire, confidando il fatto che chi se ne va dal PD non raggiungerà il 5%. Però la linea è quella di non dare corso a ritorsioni, non è nel nostro stile, dobbiamo sempre rispondere con un sorriso, dice ai suoi Renzi. In tutto questo, in una retroscena di Francesco Verderami a pagina 2 e 3, sempre del Corriere della Sera, si racconta che c'è anche una reazione di Gentiloni, perché è colui che guarda in maniera, come dire, da spettatore distratto, ma che è il primo interessato, visto che è il Presidente del Consiglio e capo del Governo. Ebbene, Gentiloni, secondo Verderami, vede la scissione come un atto ostile alla stabilità di governo. Questo è il virgolettato attribuito a Gentiloni. Ed è convinto che lo scontro sia maturato perché un pezzo di partito ha sempre vissuto Renzi al pari di un intruso. Questo altro virgolettato attribuito al Presidente del Consiglio. In tutto questo parla Prodi. Poche parole affidate a Repubblica. Goffredo De Marchis, pagina 3. Questo è un suicidio, è il titolo. Voce squillante, umore cupo, sono angosciato, dice Prodi a Repubblica. Lui, fondatore dell'Ulivo, del Partito Democratico, protagonista assoluto della stagione del centro-sinistra italiano, due volte vincitore su Berlusconi, padre nobile ma mica seduto sul divano col plaid, attivissimo, dice, faccio decine di telefonate, colloqui privati che tali rimangono. Mi sono allenato anche stamattina, sto molto bene, non sono in grado di dire nulla sul Partito Democratico, ma poi scolpisce questa frase: nella patologia umana c'è anche il suicidio. È come dire, per Prodi questo lo è politicamente parlando. Vi potete esercitare con le mappe delle scissioni, la mappa della scissione su Repubblica, c'è una cartina dell'Italia con tutte le regioni e dove vanno tutti i vari del PD. Se volete avere un'emicrania fulminante a quest'ora del mattino, è perfetta. Vi guardate e studiate per 10 secondi, fissate questa mappa della scissione e l'emicrania è assicurata. In tutto questo anche Enrico Letta, racconta il Corriere della Sera, dice la sua. Enrico Letta, famoso Letta, Enrico stai sereno, da parte di Renzi, due giorni prima di impallinarlo a Palazzo Chigi. Letta su Renzi ha le colpe maggiori. Questa è un'autostrada per 5 Stelle e destra, è uno sfogo su Facebook, Monica Guerzoni lo raggiunge, anche qui poche parole, non è proprio un'intervista. Letta dice: è così facile distruggere quanto più difficile è costruire, a distruggere ci si mette un attimo, a costruire una vita. Si sta aprendo un'autostrada a Grillo, a Salvini e al ritorno di Berlusconi, questa è la convinzione di Enrico Letta. In tutto questo Emiliano cosa fa? Sì, un giorno per la scissione, un giorno no, un giorno sì. Sempre il Corriere lo raggiunge, sempre Monica Guerzoni, alle 10 di sera, risponde finalmente al telefono e dice: se vado in direzione, oggi c'è la direzione del PD, boh, ci sto ancora pensando, devo capire, nessuna decisione è presa. Ma davvero vuol farsi una lista tutta sua? Non posso dire nulla. Comunque il Corriere fa capire: se Emiliano oggi si farà vedere al Nazareno nella direzione, che sarà disertata anche da Renzi, sarà la prova che il patto a tre, cioè il patto con Rossi, governatore della Toscana, e Speranza, ex capogruppo, è andato in pezzi. Tutti appesi a capire che farà Emiliano. Voi, per esempio, sono sicuro che ve lo starete chiedendo e ve lo siete chiesti prima di affrontare la colazione di oggi e affrontare la vostra dura giornata di lavoro e di incombenze. Segnalo anche questo, no, perché si sappia sempre bene, la politica non si dice, non sono solo livori personali, no, sono questioni più profonde. Pagina 3 della Stampa, Fabio Martini attribuisce a Massimo D'Alema questo pensiero: il governo Gentiloni va sostenuto, è la posizione di D'Alema. Oh, cioè si vede che appoggia il programma di Gentiloni. Perché? Perché è giusto per il paese e perché più dura Gentiloni, più si logora Matteo Renzi. Ecco, questo è il pensiero profondamente politico e non, come dire, corredato di livore personale di D'Alema, secondo la Stampa, questo a pagina 3. Ce n'è anche per il centrodestra, per essere un po' così, la dico la parola che non sopporto, fibrillazione, ecco, l'ho detta. Allora, perché Salvini pare non abbia per nulla gradito il fatto pubblicato da Repubblica ieri che Berlusconi punterebbe su Luca Zaia, candidato premier, per unire il centrodestra e rilanciare il centrodestra. La rabbia di Salvini su Zaia è Repubblica, la puntata di oggi sul centrodestra. Niente patti con Berlusconi, è mattina presto e Salvini chiama Zaia. A che gioco stai giocando? Con chi stai? Gli chiede a bruciapelo dopo aver letto su Repubblica di come Berlusconi lo stia corteggiando. Zaia rappresenta il carroccio di governo, una visione che piace a Berlusconi e infastidisce Salvini. Sono con te, gli risponde Zaia. Parlo con tutti, ma non significa nulla. Queste sono le conversazioni private che, come al solito, finiscono nei retroscena dei giornali. Ora, attendibilità e fonti, insomma, non si sa, nessuno credo che abbia intercettato la chiamata, ma insomma, prendetelo per buono. Oggi sui giornali un Salvini arrabbiato con Zaia. Questa è la politica, bellezza, e tu, caro Meazza, non ci puoi fare niente. Buongiorno caro Alessandro. Buongiorno. Stavamo testé meditando una scissione anche, sì, non so, con Peter Bescapè ad esempio. Va bene. Io e Peter Bescapè vogliamo fare una scissione all'interno di 24 Mattino. Adesso ottimo, ci confrontiamo un attimo sui programmi. Ma senti, io vorrei però invece richiamare la tua attenzione sull'APE. Sì. Perché oggi c'è un incontro abbastanza importante e ne riferiamo sul Sole 24 Ore proprio per varare i provvedimenti attuativi. E ti ricordi l'anticipo pensionistico? Un momento, si devono vedere, governo e sindacati vanno scritti, c'è tempo fino al 1 marzo, quindi non siamo ancora in ritardo. Mm-hmm. Domani tra l'altro invece ci sarà la prima pagellina sul nostro debito da parte dell'Unione Europea, ma vedremo, cioè, per queste brutte notizie aspettiamo. Invece l'APE potrebbe anche essere una cosa positiva, nonché molto attesa, te lo segnalo. Poi vuoi una buona notizia, ma per davvero, non quelle ironiche che dicevi tu? Non ci saranno sanzioni per i ritardi nell'invio dei modelli Intrastat. Sei contento? Sì. Sono contento per i modelli. Non cogli l'importanza, ti assicuro però che tanti ascoltatori la colgono, lo hanno segnalato ieri, lo ha detto ieri Rossella Orlandi, e quindi dobbiamo aspettarci che ci sarà più tempo, così come ci sarà più tempo per gli amministratori di condominio per l'invio dei dati alle entrate, caro mio. Oggi sai che è martedì? Sì. Ti confermi? Sì, infatti sì. C'è la pagina di condominio. Allora, tu le paghi le spese condominiali? Sempre. Ah, bravo, perché in realtà sono diversi che non le pagano, lo so. E lo segnaliamo oggi nelle pagine, appunto nella pagina di condominio. Pare che un italiano anche su quattro in qualche città così preferisca ritardare nel pagamento o non riesca a onorare le scadenze e spese condominiali. Bene, poi ti volevo dire che se l'azienda per caso ti licenziasse, naturalmente è un periodo ipotetico del terzo tipo il mio, è una cosa assolutamente ipotetica, ecco, se ti licenziasse non può tenersi però l'accesso alla tua casella di posta elettronica per 10 anni. Lo ha specificato il garante della privacy, trovi tutti i dettagli su norme e tributi. Ti segnalo poi, leggi sempre avidamente le pagine di finanza, io mi auguro. Come sempre. Oh, bravissimo, allora saprai anche della pagina che dedichiamo alle materie prime e lì apprenderai oggi che il Brasile importerà caffè. Che è una cosa che fa un po' impressione. Ho letto anche che in Brasile è in crisi il Carnevale di Rio. È in crisi il Carnevale di Rio, ma è in crisi anche e soprattutto la coltivazione del caffè, quindi hanno deciso di importare caffè. So che suona quasi paradossale, ma è così. Senti, il tempo fugge e l'uomo non se ne avvede, come dice il poeta, e allora io in chiusura ti segnalo che hanno presentato il primo trattore che si guida da solo. È vero. Il driverless. È vero. L'industria 4.0. Lo puoi leggere nelle pagine Imprese e Territori, che come sempre ti consiglio di leggere scrupolosamente. Certo. E tutto ciò premesso. Traffico! Alessandro Milan, la sciocchina dell'informazione. Che bischera tu sei, va Alessandro. Bene, vabbè. Allora, avete sentito insomma Mauro Miazza dire, è vero, ci sarà il primo trattore che si conduce da solo, che guida da solo, l'industria 4.0. d'altronde anche noi vorremmo fare qua anche a 24 mattino la conduzione 4.0, quando condurrà il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca al mio posto. Lo si va lì la mattina, si fa un po' di festa. Appunto, ecco, vedete, sono prove tecniche, metteremo a punto poi tutti i pezzettini di Vincenzo De Luca e farà una conduzione perfetta, 4.0. Che spettacolo. E così andiamo avanti, dalle 6.30 alle 9. Ma che meraviglia. È tutto così. E vedete, stiamo mettendo a punto, così noi si dorme e De Luca avanti. Furbastro. Va bene, allora andiamo avanti con la rassegna stampa. Prove tecniche, Peter. Stiamo mettendo a punto. Ci siamo quasi. Ma si capisce che non è mestiere tuo. Appunto, è per quello che siamo all'avanguardia col 4.0. Allora, Padoan rassicura l'Unione Europea, questo è il titolo del Messaggero a pagina 10, la manovra non cambia ma Bruxelles è in allerta. Allora abbiamo deciso, dopo i numeri un po' pazzi dati ieri, 3,2 miliardi, 3,4, no c'è lo sconto, ci fanno lo sconto, ci sanzionano, non è vero, non ci sanzionano. Pare oggi dai giornali che, questo ha detto Padoan, e quindi la fonte autorevole, l'intervento strutturale sarà da 3,4 miliardi di euro. Punto. Non chiedetemi delle divisioni politiche, ha detto Padoan. La vicenda PD non è affar mio. Lui si occupa solo di questa manovrina, di questa correzione dei conti dello 0,2% del PIL che l'Europa ci chiede. Retroscena del Messaggero, sapete che si parla molto la benzina, le accise eccetera, la benzina sembra fuori dalla correzione, dunque cari italiani oggi potete tirare un sospiro di sollievo, domani chissà, però i rumors dicono che non si dovrebbe toccare la benzina, resterà fuori dalla manovra di aprile, che per le cifre non cambierà nelle dimensioni. Per il resto tutto, tutte le misure ipotizzate sono ancora sul tavolo, per definire il menù esatto servirà ancora un po' di tempo. Stiamo a vedere. Allora, tornando all'Italia, c'è stata una grande polemica sollevata da un reportage di Filippo Roma della Iene su questo scandalo UNAR, come è stato definito. L'UNAR è questo ufficio antidiscriminazioni razziali operativo presso il Dipartimento Pari Opportunità di Palazzo Chigi, dunque governo, sottoposto alla responsabilità del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi. Che cosa hanno scoperto le Iene? Cosa ha scoperto Filippo Roma? Ha scoperto che alcuni fondi pubblici di questo ufficio, 55.000 euro per la precisione, sono andati a un'associazione, la ANDOS, che tra le altre cose a giudicare almeno dall'eloquente filmato mandato in onda domenica sera dalle Iene, si dedica a incontri omosessuali con tanto di dark room, servizi extra, orge. Questo, insomma, ci siamo capiti. Prima pagina della Verità, questo è il titolo: Palazzo Chigi finanzia orge omosessuali. La Boschi prima tace e poi corre ai ripari. Perché corre ai ripari? Tutti i giornali dedicano almeno una pagina a questo, perché Francesco Spano, cioè il direttore di questo centro, si è dimesso. E lui rilascia un paio di interviste, dice al Corriere della Sera: mi hanno messo in mezzo, mi sono dimesso, sì, ma guardi che è un atto non dovuto, solo opportuno. Per rispetto al lavoro che in quest'anno ho svolto con tanta passione e abnegazione, questa bufera che hanno creato è infondata, mi ha messo in mezzo, la procedura eseguita è trasparente, esiste una graduatoria, il finanziamento viene concesso in base al progetto e tutto ciò è ancora in cassa, cioè quel denaro è ancora in cassa. Dicono che lei abbia anche la tessera di socio di questo club. Finanziato, non me lo ricordavo, ho controllato, è vero, ma l'avrò fatta in un altro locale del gruppo, di altro genere, ne hanno tanti. E quindi inseriamo la tessera a mia insaputa. Ormai lo sapete. Francesco Spano, anche a Repubblica, dice: sì, ho la tessera di quel circolo, ma non ho violato la legge. Va bene, una pagina ovunque, se non due pagine sul Giorno. Orge gay finanziate dallo Stato. Beh, non è male come titolo, eh. State i titolisti. Orge gay finanziate coi soldi pubblici. Beh, e a lei. Invece i soldi pubblici erano fottuti, per usare un termine molto gentile, da un commercialista che si era inventato che cosa? Beh, lo racconta Mario Giordano. La Brianza ora sforna clandestini regolari. È stata sgominata ieri questa attività di chi faceva business sui documenti per gli immigrati. Scrive Mario Giordano: una volta si andava in Brianza a comprare il soggiorno, ora si va a comprare il permesso di soggiorno. Dall'industria del mobile a quella dei clandestini, l'economia italiana conosce il nuovo boom. La 600, la Lambretta, il frigorifero, ma che Mohammed, Sharif, Mustafa. Ebbene sì, è stato arrestato un commercialista di Monza che ha applicato i noti criteri produttivi della Brianza all'impresa dell'immigrazione irregolare. Pare abbia aperto e chiuso a raffica 800 società. Praticamente diceva: volete il permesso di soggiorno? Pagate 2.000 euro, 3.000 euro, 3.500 euro, e faceva delle assunzioni fittizie in società fittizie che apriva, poi chiudeva. Insomma, il classico business per lucrare sui migranti. Commercialista monzese, 1.500 assunzioni farlocche in 30 aziende fantasma, ha così industrializzato il mercato dei permessi di soggiorno falsi. E a lei, questo lo leggete sulla Verità in prima pagina, poi continua pagina 13, la cronaca è questa. A proposito di cronaca, oggi vi invito a leggere le due pagine di Federico Fubini sul lavoro italiano. Pagina 10 e 11 del Corriere della Sera racconta di come l'età media del lavoro in Italia, sapete di quant'è? L'età media del lavoratore italiano, 44 anni. Siamo un paese di vecchi, e questo si è sempre detto, per vecchi, e questo si è sempre saputo, ma ora i numeri sono impietosi. Dal 2008 questa età media del lavoratore è cresciuta in media di 4-6 mesi l'anno, e questo comporta dei problemi dal punto di vista della creatività, dell'innovazione, della capacità di adattarsi alle sfide del mercato notevole. Pensate che secondo il Fondo Monetario nel 2020 un lavoratore su 5 avrà più di 55 anni. Poi si dice l'apertura ai giovani. Vabbè. Siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi torniamo sulla questione della scissione PD. Ragazzi, c'è anche questo. Una pagina di Franco Bechis su Libero che racconta la scissione vera sotto le lenzuola, e cioè le coppie, tipo, non so, Boccia del PD che sta con la De Girolamo di Forza Italia, oppure il marito del ministro Fedeli che è un dalemiano, la Scopelliti di NCD che sopporta il compagno Demer. Cioè, come la scissione del PD cambia anche le coppie dei politici. Ma chi se ne frega!